quando sarà operativo. Si parla comunque di superare ostacoli di qualche chilometro con alcuni minuti di volo. Ecco, una domanda forse stupida, ma perché non un'elica e delle turbine? Sembra una cosa complicata anche da usare. Allora diciamo che l'osservazione è ben posta, perché non avete attaccato un'elica sopra il robot umanoide, in quanto si aumenterebbe il peso e lui non sarebbe in grado di coordinare il peso con questa elica. Diciamo, dal punto di vista tecnico, non è una soluzione ingegneristicamente realizzabile. È chiaro che possiamo immaginare altre soluzioni per il volo dell'essere umano, perché l'essere umano non vola sbattendo le braccia con delle... Perché non ha i pettorali di un uccello e non potrebbe mai riuscirci, si vorrebbe no, il petto di pollo al posto dei pettorali di un umano. E insomma la spiegazione è questa, che non volerebbe, a meno di non avere un'elica gigantesca, ma quello sarebbe un elicottero probabilmente più che un robot. Una volta che un robot di questo genere ha delle turbine addosso, può usarle anche per altri scopi, oltre che per volare? Certamente, se ad esempio immaginiamo che, non so, il robot deve spostare un armadio che ostacola l'apertura di una porta, lui può accendere la turbina, certo, per esercitare più forza sull'armadio. La cosa interessante è che i suoi comportamenti, avendo queste turbine, potrebbero essere distanti da quelle che osserviamo su un essere umano. Ad esempio, se noi spingiamo un essere umano, quello che facciamo per recuperare l'equilibrio è spostare un piede. Certo. Invece il robot, avendo queste turbine, potrebbe alzare un braccio. E quindi, certo, nascono delle domande quasi più a carattere evoluzionistico, in quanto non esiste un animale che ha queste capacità di locomozione terrestre, quindi camminata a volo e manipolazione. È certo, è qualcosa che la natura, almeno finora, non ha mai prodotto. Va bene, grazie Daniele Pucci, ma noi ci risentiamo domani perché continuiamo a parlare di questa prospettiva dei robot volanti. Grazie a tutti, buona serata. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, buona serata anche da parte mia.